Natalino. Canale 10, c'è qualcuno? Hola? Beh, briciola! Beh, spiarata! Ui, su caliamo! Beh, libero sì! Oggi di riposo, Gianni, cazzo, mi ho fatto 14 ore ieri! Cazzara! Ma già te ne hai fatti gli occhi lì? Ah? Già te ne hai fatti gli occhi, ho detto! E che occhi? Non eri a porchire! Sì, magari, ero cazzo a coso, ero a Lumagno ieri! In mezzo alla campagna. Un campagnolo rivende. E cosa c'è da controllare? Cos'è qualche campagna che produce olio o roba del genere? No, le controlliamo. Siccome ci sono lavori in corso nelle strade e dobbiamo controllare lì nei semafori. Ah, ecco, per fare avviare le macchine, ho capito. Ma tu mi hai detto che dovevi andare a Porchide. Quando dovevi andare a Porchide? Porchide. Tu mi hai detto la strada, come si chiama? Porchide, non è Porchide quello dove c'è acqua G? No, lì è, non è Porchide, allora dove c'è nei tornati, dove c'è l'acqua fan, subito dopo nei tornati c'è, ci sono lavori in corso, noi dobbiamo controllare la tessatura. Ah, io pensavo che tu fossi all'interno, ho capito. All'interno, la biglietteria o qualche cosa del genere, la coffa. No, no, magari. Cazzo da qua fa. Sì, non ho un'anima, non vera. Vabbè, là. Sei sempre in giro, se non sei contento. Aspetta un attimo, già. Sì. Oh, già, ma lì fanno la fare dove c'è sotto casa tua? No. Sotto casa fare non le fanno più, prima la facevano. Ma sai dove puoi andare? E via Lurra. Ma è ad asporto, no? Se te la fanno da asporto, non la giocare che dici a Bartolo. Sì, che la fanno da asporto. Si chiama... Lasciami pensare. Lasciami pensare, non mi viene il nome. Pira, via Lurra. Faene, Pira, via Lurra. E adesso guardo, aspetta che me lo scrivo così, ma te la fa da asporto, sì? Sì, sì, la fa anche da asporto. Se siete in tre, prendine una piccola, perché ne fa grandi anche quelle piccole, capito? Non ve la vedi in due a mangiare. Fai lì? E io. Che cazzo? No, solo io la mangio a fare. E cazzo, la... quanto ne prendi? Una teglia piccola non ce la fai a mangiartela, se non è che te la conservi te la fai nel microonde pure. Aspetta un attimo, a posto, già, perché stavo chiamando, pensavo che l'ha chiusa e poi mi ha richiamato lui. L'hai ordinato? Sì, no, era, ho chiamato dove abito io, no, perché ci lavora un amico mio, è la sua la pizzeria, io vado sempre da lui, però fai non ne fanno più. Allora qua sotto casa mia fanno panini, roba fritta, patatine fritte, tutta quella roba lì, poi pizzette al taglio che sono ben buone, sono belle croccanti, proprio ambrose, buonissime. E cazzo, ma siamo sempre a mangiare panini quando vado a lavoro, già cazzo, quasi riscaldo da muoio asciutto, da mangiare roba liquida, adesso minestrone, grido, che dà troppo roba asciutta sto mangiato. Basta che quando ti fai il panino te lo fai con carne di cavallo, con un po' di salata ed è come se mangiassi a casa. Cazzo, forse non avrebbe bisogno da loro quei travagli. Perché? È leggero, dai. È leggero. E via. A me mangia, mi piace poco la carne di cavallo, è fatta con prezzemolo e peperoncino. Ui. Sì, già lo so, piace anche a me, un bel. È dolce come carne, no? Se non la fai così, col prezzemolo e peperoncino, rimane troppo dolce. Però se la fai così è buona. E lo so. E vabbè, adesso, vabbè, ho preso una con prosciutto e funghi, dai. Tanto già la fa buona lui. È uno che già è bravo a fare pizza. E qua vicino a casa, via Donizetti. Ho capito, sì, corretto. Sì, ma poi pizzeria sa sarebbe in esombre, eppure lavorano tutte a casa. Io non capisco, lavorano tutte bene. Basta che lascia fare la pizza, non c'è concorrenza per le pizzerie. Qua ce n'è una anche lì da Obelix, sono bravi lo stesso, molto bravi, ed è buona pure, via Leante. Via Grazia Deledda, Obelix. Ah sì, via Grazia Deledda, scusa, appena sali via Grazia Deledda sulla destra. Quella lì è la pizzeria dove lavora Anima Lunga, Savvidio. Io conosco, già lo so. Ci lavora un collega mio lì la sera a fare porta pizze. K. E fa tutti e due, fa il tuo lavoro più porta pizze così. E lui, perché lui va a fare la giornata, capito? Smonta le tre, riposa e poi la sera fa quelle tre ore porta pizze. A me l'ha rotonda lo stipendio, non è male, dai. E non è male, no, dice che già guadagna. Sì, io avevo un amico che studiava all'università, non ti parlo di adesso, ma ti parlo di un po' di tempo fa, adesso è laureato e sta anche lavorando fuori continente, e praticamente lavorava all'università per pagarsi gli studi e andava a portare le pizze, il sabato alla cassaforte si faceva anche 70 euro di sabato. Aspetta un attimo al telefono, già. Hola, attenzione dici, c'è qualcuno? Boh, so poco più come è fatta. Intanto, Mi sta capitando di fare un nuovo corso, devo fare un aggiornamento perché ormai. Giulio.